Hashtag Autotrasporti. Hashtag Autotrasporti, buon pomeriggio da Andrea Ferro. In primo piano oggi le preoccupazioni da parte degli operatori della logistica e non solo dopo l'annuncio di Vienna di voler rafforzare i controlli ai confini, spazio poi al telepass europeo e alla riforma del trasporto pubblico locale in dirittura d'arrivo. In apertura quindi torniamo a parlare delle prospettive che si determinerebbero in seguito alla reintroduzione dei controlli ai valichi di confine con l'Austria. Vienna ha già varato i tetti giornalieri sull'accoglienza e il transito dei migranti e ha annunciato l'istituzione al Brennero di vere e proprie barriere per fronteggiarne il flusso. Per il passaggio di persone e di merci significherebbe un allungamento dei tempi e quindi un aggravio di costi con un effetto domino su tutta la nostra economia. L'allarme è stato lanciato da giorni dalle associazioni degli autotrasportatori, ma nel dettaglio cosa significherebbe un inasprimento dei controlli? Ascoltiamo Thomas Baumgartner, presidente di Anita. Bisogna considerare che un mezzo pesante fermo per un'ora costa minimo 60 euro solo per il fermo della macchina, perciò una dilatazione dei tempi di trasporto di 1-2 ore fa aumentare il nolo medio in trasporto anche del 10%. I trasportatori dovranno necessariamente riversare sui committenti e perciò paga la collettività. Questo per l'Italia significa logicamente perdere di competitività rispetto ad altri paesi come la Francia che esporta verso la Germania o il nord dell'Europa. Ci sono altri problemi con gli autisti, perché purtroppo gli autisti già oggi fanno difficoltà con le norme sui tempi di guida e riposo a riuscire a fare il loro giro settimanale di trasporti e di ritornare a casa il fine settimana. Con questi ritardi presumibili rischiamo che i nostri autisti purtroppo rimangano fermi per strada senza poter entrare perché le ore di guida sono finite. A questo punto cosa si può fare per scongiurare il caos alle frontiere? Sentiamo ancora Baumgartner. Noi speriamo che anche le altre associazioni imprenditoriali come Confindustria si dia da fare, perché in fin dei conti è un costo per tutta l'economia italiana. Vediamo che i politici locali fanno il loro meglio, però qui purtroppo manca l'Europa unita. L'Europa non è unita, ma è una cooperazione di stati, ogni stato fa quello che gli pare quando è in difficoltà. L'unica soluzione è di traghettare l'Europa veramente in un'Europa unita, con una politica estera unica, con una regia dei confini esterni unica. A livello politico la mobilitazione prosegue. Oggi a Roma i presidenti dell'Euroregione, formata da Trentino, province autonome di Trento e di Bolzano e Tirolo austriaco, incontrano il ministro degli interni Angelino Alfano. Arno Compaccer, presidente della provincia autonoma di Bolzano, quantifica il flusso di merci e di mezzi che transitano dal Brennero, passaggio cruciale verso il nord dell'Europa. Abbiamo 2 milioni di camion ogni anno che attraversano il valico e per quello ovviamente è un confine particolare, e questo l'hanno fatto presente anche la ministra competente austriaca, e perciò ci vuole una gestione particolare, sarebbe programmato il caos totale. Noi comunque chiediamo che ogni misura debba avere un carattere assolutamente temporaneo per affrontare adesso questa situazione anomala, perché Schengen va ripristinato subito e finalmente gli stati europei devono darsi una mossa, e questo ovviamente va rivolto anche allo Stato italiano, perché anche qui bisogna adesso adottare le misure conseguenti. Stretta ai confini, l'accordo di Schengen in dubbio, l'idea stessa di Europa che traballa. Ma proprio in questi giorni, almeno sul fronte autostradale, arriva un segnale in controtendenza. È infatti disponibile il primo telepass europeo, valido in 5 paesi. È stato presentato a Parigi da Telepass, società del gruppo Autostrade, oltre che in Italia può essere utilizzato in Francia, Spagna, Portogallo e in Belgio nel tunnel di Lichtenstock. Ugo De Carolis è l'amministratore delegato di Telepass. Nasce dalla esigenza dei trasportatori, degli autotrasportatori, di avere un'interoperabilità che al di là dell'unico apparato. Immagini la logistica ogni volta per un autotrasportatore che deve cambiare una targa a un camion. In molti casi questi apparati vanno ripersonalizzati, portarne 5 diversi è completamente diverso che farne arrivare uno solo o sostituirne uno solo, no? Quindi, a parte un discorso di vantaggi operativi, c'è il vantaggio di avere un unico interlocutore che ti possa fare poi un riepilogo delle spese di tutti i pedaggi in un unico documento, con i vantaggi di gestione del costo, controllo del costo. L'obiettivo è di estendere al più presto il raggio di azione del Telepass europeo. Stiamo già lavorando per certificarci con il resto dell'Europa. Chiaramente diciamo che lo stato dei processi di certificazione nei vari paesi varia a seconda dello stato, ma noi stiamo già lavorando per l'Austria e per tutto il resto dei paesi nordici. E a proposito di pedaggi autostradali, prosegue la campagna di FIAP, la Federazione Italiana Autotrasportatori, contro gli aumenti periodici e i meccanismi, definiti poco trasparenti, che li determinano. Con un nuovo intervento, il presidente Massimo Bagnoli ha sollecitato che all'autotrasporto venga assegnato un posto al tavolo attorno al quale, si legge nella nota, vengono presi in esame i costi degli investimenti sui quali poi i concessionari applicano i pesantissimi aumenti dei pedaggi. Parliamo ora di trasporto locale. La riforma inserita nel decreto Madia, che riguarda la pubblica amministrazione, si sta delineando. Tra le questioni cruciali c'è quella delle gare d'appalto per l'affidamento dei servizi. Ne abbiamo parlato con Nicola Biscotti, presidente di ANAV, l'Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori. La riforma ovviamente dovrebbe estendere, quindi imporre a tutte le aree del paese il sistema delle gare per l'assegnazione dei servizi, prevedere un fondo trasporti finalmente incentivato secondo l'inflazione e prevedere dei lotti di gara che siano contendibili e consentono a tutte le imprese di partecipare. Poi è chiaro che il migliore vince, ma l'importante è che tutti possano partecipare. In ballo poi ci sono i punti relativi ai costi standard e al rinnovo del parco circolante. Il decreto sui costi standard precede sicuramente la riforma perché viene dalla legge di stabilità 2014 e dovrà razionalizzare la spesa evitando quelle discrasie, quelle differenze che ci sono tra vari tipi di imprese. E poi dovrà inserire nel costo dei servizi e quindi nei corrispettivi l'ammortamento dei veicoli, consentendo alle imprese di cominciare a fare investimenti, cosa che non fanno da molti anni con un parco rotabile che non è mai arrivato a quasi 13 anni di anzianità ed è una cosa che è fuori da ogni concetto di qualità. È chiaro che circolare con questi mezzi è un costo per le imprese, perché i costi di manutenzione naturalmente aumentano, è un costo per l'ambiente perché il tasso di inquinamento è superiore, ma soprattutto è una scarsa qualità per gli utenti. Al di là della riforma resta il deficit infrastrutturale che pesa non poco sull'efficienza, in qualche modo sulla competitività del mezzo pubblico rispetto a quello privato. Ascoltiamo ancora Biscotti. In Italia siamo abbastanza dietro rispetto all'Europa. Il cambio ferro-gomma, l'intermodalità così come viene chiamata, che è uno dei cavalli di battaglia di tutta la pianificazione di trasporto pubblico locale, manca di un elemento essenziale, cioè le piccole e medie infrastrutture dedicate proprio allo scambio delle varie modalità di trasporto. Non esistono, se non in pochi casi, autostazioni degne di questo nome. Tra le novità contenute nella bozza della riforma, ora all'esame del governo, sanzioni più salate fino a 200 euro per chi non paga il biglietto, ma anche il diritto ad ottenere il rimborso nel caso di cancellazioni o ritardi. Oltre la mezz'ora, se si tratta di mezzi pubblici cittadini, dopo un'ora se si allarga il raggio a livello locale. ANFIA, l'Associazione Nazionale della Filiera dell'Industria Automobilistica, ha diffuso i dati della produzione 2015. Il direttore Gianmarco Giorda commenta i numeri relativi ai mezzi commerciali e industriali. Sicuramente i veicoli commerciali hanno risentito meno della crisi a livello di produzione degli ultimi anni perché hanno perso sicuramente meno rispetto appunto ai veicoli industriali e alle autovetture. Diciamo che i livelli del 2015 sono gli stessi livelli del 2007, per cui abbiamo più o meno raggiunto l'anno scorso i livelli pre-crisi, mentre invece c'è ancora molta strada da fare per i veicoli industriali perché abbiamo chiuso a 33-34 mila unità prodotte di camion rispetto agli oltre 50 mila prodotti nel 2007, per cui c'è ancora un gap importante da colmare rispetto appunto al periodo pre-crisi. Vediamo il 2016 con un discreto ottimismo, nel senso che immaginiamo sicuramente una continua crescita della produzione di autoveicoli in Italia, un po' in tutti i settori. Si dovrebbe confermare il buon trend dei veicoli commerciali, ma nello stesso tempo anche i veicoli industriali dovrebbero riprendere comunque la crescita. Hashtag Autotrasporti finisce qui, grazie per l'attenzione. Da Andrea Ferro, buon pomeriggio. Hashtag Autotrasporti. In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.